Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento anche questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi ritroviamo una voce che ormai sta diventando anche nostra amica, quella di Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, con te Gianluca parliamo dell'ennesimo caso che l'Adico si trova, come dire, a cercare di venirne a capo, no? Perché questa volta raccontiamo l'ennesima vicenda legata ai famosi conguagli, perché ci sono alcune ditte che sono regolari nei controlli, insomma, e chiedono i soldi che devono essere chiesti in bolletta, altre che evidentemente si perdono un po' con i conteggi e poi chiedono il conguaglio alla fine, che può essere anche molto pesante. Vogliamo raccontare un po' questa vicenda? Sì, allora la vicenda si lega appunto a quello che dicevi te, al fatto appunto che da un po' di tempo a questa parte noi siamo invasi, diciamo, assaliti da persone che appunto denunciano di aver ricevuto bollette di proporzioni assurde, e di solito sono legate ai conguagli. Praticamente sono dei calcoli che vengono rifatti dagli operatori e sui consumi, e che possono andare indietro anche di 5 anni. E quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte a una disavventura di un operaio veneziano che vive a Mira, che è sempre in provincia di Venezia, e il quale ha ricevuto appunto una bolletta di 2.500 euro della luce e da parte di Eon Energia. Una bolletta che abbiamo subito contestato. Sì. Ma mi viene da pensare, ma come mai ci sono queste cose? Non riescono a fare i controlli ogni anno? Come può capitare una cosa del genere? Allora, diciamo che questi sono praticamente calcoli di consumi teoricamente appunto non conteggiati negli anni precedenti. Qua sono solitamente cose legate anche ai contatori, al cambio del contatore e a certi tipi di consumo. E comunque è la legge stessa che prevede, come ti dicevo già in altre occasioni, cercheremo di farla cambiare in qualche maniera per quanto potere abbiamo, che prevede questa possibilità di riconteggiare dei mancati consumi, teorici mancati consumi, da parte dell'operatore, e si può andare indietro di 5 anni, quindi capisci bene che è anche difficile andare a contestare un calcolo che va indietro di 5 anni. Però purtroppo arrivano dei conguagli che invece lasciano di stucco le persone che appunto si vedono, molte delle quali si rivolgono a noi appunto per cercare un attimo di capire cosa è successo. E in particolare questa persona, insomma, si rivolta a noi, e oggettivamente il conguaglio che è arrivato è un conguaglio del tutto illegittimo, a nostro parere. E il motivo è semplice: nel contratto stesso c'è scritto chiaramente che la società non può andare a calcolare i consumi oltre a un anno, invece l'ha calcolato dal 2011, quindi da 4 anni, però il contratto prevede esplicitamente che invece venga fatto un controllo annuale. Ecco, quindi se la legge consente una cosa, il contratto sottoscritto da entrambi, cioè dall'azienda e dal cliente, ne dice un'altra. Sì, diciamo che si può prevedere appunto nel contratto che la società, visto poi questo periodo, che la società appunto non vada a fare calcoli indietro nel tempo, ma che gli faccia al massimo una volta all'anno faccia la lettura del contatore. Tra l'altro questa persona aveva scelto Eon Energia proprio per questa opportunità e per delle tariffe, insomma, che gli sembravano convenienti. Adesso il suo timore è quello che gli venga tolta la luce se non paga questa bolletta, ma noi chiaramente adesso abbiamo contattato l'operatore, abbiamo inviato una diffida e crediamo, insomma, che tutto si risolva per il meglio. Sì, quindi c'è vi sembra che ci sia una buona apertura, insomma, in questo senso? Sì, diciamo che noi dalle nostre esperienze abbiamo visto che comunque poi l'operatore, il fornitore, solitamente ascolta un po' le contestazioni, e io vedo che abbiamo visto qua anche nella nostra associazione che almeno 70-80% delle volte il calcolo viene rifatto, e solitamente arriviamo a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle inizialmente paventate. Ecco, vabbè, della serie io provo a chiederli, se mi arrivano arrivano, se no vediamo cosa si riesce questa a fare. Purtroppo è la sensazione, ecco. Questa è la sensazione, speriamo non sia così in realtà. Vabbè, quindi insomma avete già mosso le vostre carte e vi racconteremo anche agli amici di Blu Radio Veneto come andrà a finire questa vicenda. Facciamo gli auguri a questo signore. C'è qualche consiglio che possiamo dare per non incappare in queste cose o siamo in balia un po' di queste società? Allora, notiamo che siamo in balia di queste società, perché noi possiamo assicurare che qua le persone che si rivolgono a noi vengono per mille motivi, ma la maggioranza assoluta si rivolge a noi portandoci delle bollette che noi definiamo bollette pazze. In realtà sono delle bollette che sono state calcolate in un modo che potremmo definire pazzo, però avrebbero un senso almeno per l'operatore, per il fornitore. Noi invitiamo veramente, al costo di ripeterci, invitiamo gli utenti a non pagare se si è convinti che ci sia un errore da parte del fornitore. Non bisogna farsi prendere dalla paura che adesso mi chiuderanno l'acqua, mi chiuderanno il gas, ma noi invitiamo ovviamente a rivolgersi a noi o comunque alle associazioni che difendono i consumatori per farsi rifare i calcoli, perché veramente la maggior parte delle volte è un errore di calcolo da parte del fornitore. Sì, anche perché se paghiamo poi non è che possiamo chiedere la restituzione dopo. Diventa tutto più difficile, quando si paga è sempre un po' una missione, cioè, impossibile. Riconoscere il debito ed è più difficile recuperare i soldi. Certo, certo, va bene, quindi insomma amici, avete dei dubbi? Una telefonata, non dico vi salva la vita, ma insomma vi salva qualche spesa in più. La telefonata è quella che potreste fare all'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito che dovete andare a controllare, perché poi nel sito si trovano tante belle notizie utili e anche poi i numeri e i contatti per chiamare i nostri amici dell'ADICO, che ringrazio e saluto. Ritroviamo l'ADICO tra un paio di giorni, penso ancora con te Gianluca. Penso proprio di sì. E allora grazie a Gianluca Codognato dell'Adico, a fra due giorni. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.